Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Abbiamo chiesto al presidente Conte a questo punto di produrre una sintesi, che io credo che sia giusto, anche perché gli italiani ci guardano e noi vogliamo un governo che produca fatti, e credo che invece le continue polemiche creano solo danni e rafforzano le destre. Si inizia con grande intensità, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. C'è il governo incagliato, come avete sentito dalle parole del leader del PD, Zingaretti, sulla questione, sulla riforma della giustizia, in particolare sul tema della prescrizione, che continua a creare molte tensioni tra le quattro forze della maggioranza, che sono in particolare Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, ma anche Italia Viva di Renzi e poi Liberi Uguali. Ce ne occuperemo, così come naturalmente si dovrà tornare anche in questa prima puntata della settimana sugli sviluppi relativi al coronavirus. Ci sono tante novità da raccontare. Ci saranno ben quattro ospiti questa sera. Fra le novità, la richiesta da parte di alcuni governatori leghisti di regioni del nord di mettere in quarantena anche i bambini, non solo gli adulti, i bambini che sono di fresco ritorno dalla Cina e che devono tornare a scuola. E poi veramente degli episodi spregevoli di totale irrazionalità. Frosinone, alcuni studenti cinesi sono stati presi a sassate perché fra loro c'era una studentessa che si pensava fosse malata, invece poi si è visto che era assolutamente negativa al test. Ci occuperemo per alleggerire anche di Sanremo. Siamo alla vigilia. Amadeus, avete sentito tutte le polemiche di questi giorni, lui dice di avere la coscienza a posto. Direi, vi ricordo naturalmente che avete sempre due canali privilegiati per interagire qui con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp da inviare a questo numero 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666, cioè il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure durante il giorno per alcune anticipazioni, Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. Coronavirus, i presidenti di Lombardia, Veneto e Friuli, insieme al presidente della provincia autonoma di Trento, chiedono un periodo di quarantena per gli allievi che rientrano dalla Cina, e a Frosinone e Sassaiola contro alcuni studenti cinesi. E sono in quarantena in Toscana i 56 italiani rientrati da Wuhan, nessuno presenta sintomi sospetti. Lo scoglio della prescrizione, ancora tensione nel governo sulla riforma. Il segretario del PD Zingaretti auspica che Conte trovi una mediazione. Brexit, botta e risposta tra il primo ministro britannico Johnson e il capo negoziatore dell'Unione Europea Barnier. Stati Uniti, primarie democratiche in Iowa per i democratici a caccia dell'anti-Trump. Città inquinamento dopo le polemiche a piedi giù lo smog, delle domeniche a piedi giù lo smog a Milano, ma anche grazie al meteo. Temperature record con 27 gradi a Pinerolo, domani previsto vento forte. Sanremo, alla vigilia del festival, Amadeus assicura di avere la coscienza a posto riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Calcio, Gasperini vince la panchina d'oro 2019 a Mihajlovic, il premio speciale per il settore tecnico, e poi in campo per la Serie A maschile Sampdoria-Napoli. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sul coronavirus cinese. Salgono ancora i contagi, cresce il numero dei morti, ma a un ritmo superiore aumenta anche il numero di chi è guarito dall'infezione da coronavirus. Il totale delle persone ricoverate e dimesse in tutto il mondo dopo essere state colpite dal virus nato in Cina è salito a 530, più di 100 in più nel giro di 24 ore, mentre i morti nello stesso arco di tempo sono aumentati di poco oltre 50 unità, arrivando a 362, incluso il cittadino cinese deceduto nelle Filippine. In Italia i presidenti di Lombardia, Veneto e Friuli, insieme al presidente della provincia autonoma di Trento, chiedono un periodo di quarantena per gli allievi che rientrano a scuola dalla Cina. Poi ne parleremo insieme agli altri ospiti. Ci sarà qui ospite il presidente della regione Friuli, Massimiliano Fedriga. E a proposito degli irrazionali, deprecabili gesti di panico, a Frosinone c'è stata una sassaiola contro alcuni studenti cinesi per una studentessa malata risultata poi negativa ai test. Intanto sono rientrati dalla Cina 56 cittadini italiani a bordo di un aereo atterrato a Pratica di Mare. È atterrato poco dopo le 10 all'aeroporto di Pratica di Mare l'aereo militare con a bordo i 56 connazionali provenienti da Wuhan. Dovevano essere in 57, ma un 17enne è dovuto rimanere in Cina per via di qualche linea di febbre. Sottoposti presso lo scalo ai primi controlli medici, gli italiani sono stati trasferiti con due pullman al campus olimpico della Cecchignola. È lì che trascorreranno i 14 giorni di quarantena, il tempo massimo di incubazione del virus. Indosseranno guanti e mascherine e gli oggetti che toccheranno verranno poi trattati trattati come rifiuti speciali. Per ora stanno tutti bene, ha detto il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia. Una situazione, considerando il viaggio, considerando la pressione che hanno vissuto, ci sembra buona. Una persona è dovuta rimanere ed è stata sottoposta a un test, avremo i risultati domani. E intanto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza per l'emergenza coronavirus. Verranno monitorati i voli indiretti dalla Cina, annunciato a 24 mattino. I voli diretti sono stati chiusi e quindi questo monitoraggio riguarda tutti i voli indiretti. Quindi anche voli che arrivano dall'area Schengen, che arrivano al nostro paese, saranno controllati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E il presidente del Consiglio Conte oggi si è recato in visita allo Spallanzani, dove sono ancora ricoverati in discrete condizioni due cinesi risultati positivi al coronavirus e dove ieri è stato isolato il virus. Un grande traguardo raggiunto dalle tre ricercatrici dell'Istituto Spallanzani di Roma, una delle quali precaria, che ha ricordato quanto poco l'Italia investa in ricerca, tanto da essere all'ultimo posto nell'Unione Europea, anche se il governo ha in programma un'inversione di rotta. Sentiamo allora il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, al microfono di Rosanna Magnano. A fronte di questo grande talento, di questo grande coraggio che abbiamo dei nostri ricercatori, purtroppo negli ultimi anni non c'è stato quell'impegno finanziario che la ricerca italiana meritava. Noi interverremo subito con un intervento straordinario sui ricercatori. Su questo investimento, sui 1.600 ricercatori, parliamo di più di 100 milioni di euro. E in che tempi? Sicuramente i concorsi verranno fatti entro quest'anno. Ma poi è mia intenzione proporre al governo, nell'ambito della prossima finanziaria, un piano pluriennale di reclutamento che dia certezze ai ricercatori e che consenta anche a tutti coloro che oggi si trovano in una situazione di precariato di poter avere un'opportunità. Tutto questo fin qui per quanto riguarda l'Italia. Sentiamo invece qual è l'evolversi della situazione in Cina. Ci sono 362 decessi per coronavirus tutti in Cina, con l'eccezione di una vittima nelle Filippine. Lo indica il bilancio ufficiale, che parla di quasi 17.400 casi di contagio accertati, tra cui 25 in Europa, il triplo di quelli provocati dalla SARS. Se aumenta il numero dei morti, cresce anche per fortuna quello delle persone guarite e già dimesse, che sono 530 in tutto il mondo. Tra le buone notizie si aggiunge quella della bambina nata il 30 gennaio scorso in Cina, in un ospedale di Harbin, da una donna infettata dal coronavirus, che è risultata negativa al test. Dunque non è malata e al momento anche la mamma è in condizioni stabili. Fuori dalla Cina, il paese più colpito resta il Giappone, con 20 casi confermati e nessun nuovo contagio nell'ultima giornata. Seguono Thailandia, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud, Australia e Stati Uniti. Il primo paese europeo nella classifica è la Germania, con 10 casi, seguita dalla Francia, con 6. Il tutto mentre l'Africa risulta ad alto rischio dal punto di vista della diffusione del coronavirus. A lanciare l'allarme i centri africani per il controllo delle malattie, che, lamentando la carenza dei kit per la diagnosi, hanno sottolineato come i contatti tra Cina e Africa siano aumentati negli ultimi 10 anni del 600%. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ritorneremo naturalmente su questo tema così centrale, così importante, vi dicevo, con 4 ospiti. Siamo alla politica italiana adesso, con la lite in casa della Lega. Salvini sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega. Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, critica la svolta impressa da Salvini al suo partito e la sconfitta elettorale incassata alle regionali in Emilia-Romagna. Ho aderito al gruppo Lega per Salvini Premier per forza di cose, racconta Bossi in un'intervista a Repubblica. Ma una tessera nazionalista mica fa per me, afferma. Ci sono tanti militanti che non approverebbero. La priorità, secondo Bossi, resta l'autonomia del Nord. Matteo Salvini respinge le critiche al mittente, rispetto le idee di Bossi, ma io non cambio le mie, dice. I padri nobili della Lega sono i 9 milioni di italiani che ci danno il voto. Se qualcuno vuole dividere, puntualizza, non è il momento. Sul fronte giudiziario, intanto, la Procura di Milano ha chiesto di poter indagare altri 6 mesi sull'ex portavoce di Salvini, Gianluca Savoini, e su altre 2 persone nell'ambito dell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I 7 femminicidi negli ultimi 7 giorni. Su questa strage senza fine è intervenuto oggi il capo della polizia Gabrielli. I reati contro le donne, ha detto, hanno un preoccupante numero oscuro e il fenomeno è molto più diffuso e preoccupante rispetto a quanto ci dica la statistica. Lo ha detto appunto il capo della polizia Franco Gabrielli parlando a Brescia dopo il delitto di Francesca Fantoni, la 39enne uccisa a Bedizzole. Siamo davanti, ha detto Gabrielli, a un problema culturale. Fino a quando nella società le donne vengono considerate come una proprietà, questi fenomeni continuano ad esserci. Bisogna fare rete con i centri antiviolenza, bisogna accompagnare, ha aggiunto il capo della polizia, le vittime, perché non si esaurisce tutto con la denuncia, ma spesso i problemi per le donne iniziano in quella fase. Quando una donna viene uccisa è una sconfitta per tutti, ha detto Gabrielli. Ed è organizzata per questa sera a partire dalle 21, quindi iniziata poco fa, in piazza Umberto a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, una fiaccolata dedicata a Rosalia Mifsud, di 48 anni, e alla figlia Monica Diliberto, di 27 anni, uccisa da Michele Noto, il 27enne che poi si è ucciso. La manifestazione è stata intitolata La Panchina Rosa, per rendere omaggio a tutte le donne vittime di violenza. Dal punto di vista umano, sempre ancora cronaca nera, questa vicenda ci ha molto coinvolto perché ha fatto emergere uno spaccato umano che di umano non ha nulla. Un padre e un figlio che sfruttano la madre e la sorella per pochi euro. Le facevano prostituire sotto i cavalcavia della città e nessuno ha visto niente, nessuno ha denunciato. Questo è il commento del procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo, in merito all'arresto del 53enne e del figlio 27enne posti ai domiciliari con l'accusa, appunto, a vario titolo di favoreggiamento alla prostituzione e maltrattamenti in famiglia. All'estero, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi sono ufficialmente iniziate le schermaglie negoziali post-Brexit tra Londra e Bruxelles. We must choose between full access to the EU market. Sono stati sufficienti 3 giorni per riaccendere le tensioni tra Gran Bretagna e Unione Europea dopo la conclusione di Brexit. Nell'atteso discorso sui negoziati futuri tra Londra e Bruxelles, che inizieranno a marzo per concludersi in autunno, il Premier Boris Johnson ha chiaramente indicato la strada di un trattato di libero scambio con l'Unione Europea sul modello canadese, che prevede l'eliminazione della maggior parte dei dazi tra i due blocchi, ma che non sopprimerebbe del tutto i controlli IVA e doganali. Johnson ha usato toni duri come da programma. La scelta è fra accordo o non accordo, ma soprattutto ha minacciato che non ci sarà alcun allineamento alle regole e alle normative comunitarie a partire da gennaio. Le dichiarazioni di Johnson non mi impressionano, ha fatto eco da Bruxelles il capo negoziatore europeo Michel Barnier. Abbiamo un testo preciso, concordato, ha sottolineato Barnier, che ha detto di essere pronto ad offrire a Londra un accordo a tariffe e dazi zero su tutte le merci, insieme a un'intesa ambiziosa sui servizi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stati Uniti, ci sono iniziate le primarie democratiche nello stato dell'Iowa per i democratici a caccia dell'anti-Trump. E poi ci sono state almeno 2 sparatorie oggi negli Stati Uniti, di almeno 2 morti e 1 ferito. Il bilancio della sparatoria in una università del Texas. L'episodio è avvenuto alla Texas A&M University, nella località di Commerce, non lontano da Dallas. Le autorità per ora non rivelano se il killer è stato fermato o meno. Terrore poi sul bus in California, dove un uomo nella serata di ieri ha aperto il fuoco uccidendo una persona e ferendone altre 5. Il mezzo della società di trasporti texana Greyhound era partito da circa 1 ora da Los Angeles ed era diretto a San Francisco, a bordo 40 persone. Il killer, convinto dall'autista, poi è stato arrestato. Ancora non chiara la dinamica di questo incidente e cosa abbia scatenato la furia omicida. Kenya, 13 bambini sono morti, oltre 40 sono rimasti feriti, tutti travolti da una calca, la cui causa non è ancora stata individuata in una scuola elementare a Kakamega, nell'ovest del Kenya, lo ha riferito la polizia locale. E poi un triste anniversario, 4 anni fa veniva ritrovato sulla strada tra il Cairo e Alessandria il corpo di Giulio Regeni, ma sull'omicidio del ricercatore restano ancora tanti interrogativi. Un vaso di fiori gialli e una data, 3 febbraio. Basta una semplice data postata sui social da mamma Paola per evocare questi 4 anni senza Giulio. Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto. Il suo nome sventola ancora dai balconi di molti uffici e da subito questa è stata una causa sostenuta da migliaia di cittadini, concordano i genitori Paola e Claudio. Ma sulle ragioni dell'omicidio c'è ancora una fitta nebbia. Dal dicembre 2017 infatti non c'è più stato alcun nuovo contributo dalla Procura Generale del Cairo, ricorda Giuseppe Pignatone, già alla guida di Piazzale Clodio, e questa è la ragione per cui i Regeni sollecitano il richiamo dell'ambasciatore, perché si tratta di stabilire, spiegano, se esiste uno Stato in grado di difendere i cittadini al di sopra di tutti gli interessi. 7 gli indagati dalla Procura di Roma, agenti dei servizi segreti egiziani che avevano stretto il ricercatore in un'autentica ragnatela, ha spiegato l'attuale Regeni Michele Prestipino alla commissione parlamentare d'inchiesta. Ma dall'Egitto nulla più di concreto è arrivato e la politica ha deciso di lasciar correre, attaccano i genitori. Al loro fianco però sono in migliaia nel nome di Giulio Regeni. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il meteo adesso, tempo pazzo con temperature in forte rialzo. A Pinerolo in Piemonte ci sono toccati 27 gradi, domani una perturbazione atlantica porterà forti venti, mareggiate, un brusco calo delle temperature con nevicate al centro-sud. Per il vento previsto, scuole chiuse domani a Follonica in provincia di Grosseto. E poi Sanremo, alla vigilia del festival, Amadeus rassicura di avere la coscienza a posto riguardo alle polemiche nei giorni scorsi. Poi ci colleghiamo con la nostra inviata e rassicuro anche l'ascoltatore Henry che chiede: Roby, seguirete il festival di Sanremo durante la settimana? Ebbene sì, puntata per puntata. Ma intanto ci colleghiamo invece con il nostro Giovanni Capuano per quanto riguarda il calcio. Ciao Giovanni. Eccomi, ciao Roberta, buonasera. Allora, intanto sintetizzo una notizia di cui parleremo poi meglio dopo, Giovanni, nella parte finale della trasmissione, la Gasperini che ha vinto la panchina d'oro 2019, mentre vorrei aggiornamenti da te per la partita di Serie A maschile in campo Sampdoria-Napoli. Come va, Giovanni? Beh, ti racconto una partita molto divertente. In questi primi 29 minuti il Napoli sta conducendo 2-1 a Marassi, Napoli che è partito fortissimo perché è andato sul 2-0 nel primo quarto d'ora, ha realizzato al terzo con un colpo di testa di Milik su cross di Zielinski, Milik che ha sorpreso la difesa della Sampdoria, poi ha trovato il raddoppio al sedicesimo con Elmas sugli sviluppi di un corner, ha realizzato il macedone, gara che sembrava a quel punto chiusa con la Sampdoria sotto shock, invece tre minuti fa al 26esimo è arrivato improvviso il 2-1 di Quagliarella, un gol bellissimo, un destro al volo dell'attaccante della Sampdoria dal limite dell'area di rigore, niente da fare per il portiere del Napoli, Quagliarella che poi non ha esultato perché Quagliarella ha passato parte della sua carriera nel Napoli ed è originario di Napoli, ma pur non esultando ha comunque ottenuto l'effetto di riaprire la contesa. Dunque siamo alla mezz'ora con il Napoli avanti 2-1. È una serata importante per la squadra di Gattuso perché dovesse riuscire a vincere questa partita, complice anche i risultati del weekend, di fatto si rimetterebbe perfettamente in corsa per un posto almeno nella zona Europa League, perché vincendo, così come sta facendo in questo momento, salirebbe a quota 30 punti. Il sesto posto si trova in questo momento a 32, ma c'è una mischia con diverse squadre. Insomma, è una serata che per il Napoli è importante, nel quale ha bisogno di fare risultato, così come la Sampdoria, che ricordiamo è quintultima, si trova in questo momento a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, ma ha comunque bisogno di non fermarsi. 31esimo minuto, 2-1 per il Napoli, e a te la linea se non hai domande. A dopo Giovanni Capuano, ne avrò di domande. Invece adesso i vostri commenti di ascoltatrici e ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Note e al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Per esempio Fabrizio dice, a proposito dei fatti cresciosi, ignobili di questi giorni, come la sassaiola Frosinone nei confronti di studenti cinesi, dice: mi piange il cuore che il nostro paese debba pagare le conseguenze di chi ha coltivato e coccolato l'imbecillità strillando inesistenti soluzioni semplici a problemi complessi, scrive Fabrizio. Maria dice: la colpa è anche nostra, eravamo convinti che benessere economico fosse uguale ad abbondanza di materia grigia. Cristian: ci illudiamo di aver avuto un'evoluzione in senso etico, ma basta poco a far cadere la patina di civiltà. Bene, allora ci fermiamo momentaneamente per aggiornare chi sta viaggiando e poi dopo cominciamo allora con i temi in primo piano e con gli occhi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata che avete appena sentito. Roberta Giordano sempre con voi in questa sfida nel raccontarvi a fine giornata quello che di più importante è successo in Italia e all'estero, per poi approfondire alcuni temi con gli ospiti. Cominceremo appunto tra pochissimo. Intanto, per i vostri messaggi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Note oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Sui fatti per esempio di Frosinone, questa sassaiola indegna nei confronti di alcuni studenti cinesi, Gilles dice, questo è Guido che dice: la colpa, oltre ad essere della cretineria di certi soggetti da piazza, sempre gli stessi, dice, anche del terrorismo mediatico e morboso messo in atto da tutti i media. Guido, facciamo delle distinzioni, qualcuno fa del terrorismo, fa dello spettacolo, non è il caso di Radio 24, e poi ascoltate Effetto Notte in particolare, quindi avrete tutte le informazioni in modo limpido. Antonio dice: vergognoso, anche a Bergamo c'è stata un'epidemia di meningite, ma nessuno se la prende coi bergamaschi, e dire che la meningite è molto più grave del coronavirus. Gianluca dice: allucinante, questa psicosi sta tirando fuori il peggio, eccetera eccetera. Adesso quindi cerchiamo di fare dell'informazione con gli ospiti, che comincio a salutare. Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, buonasera. Buonasera a voi. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, bentornato Rezza, buonasera. Salve, buonasera. Poi c'è Matteo Biffoni, che è sindaco di Prato. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti voi. E stiamo per raggiungere, c'è anche Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio, presidi del liceo Newton di Roma. Buonasera, professor Rusconi. Buonasera, buonasera. Allora, faccio intanto un'introduzione dicendo che ovviamente è inutile specificare che il tema del coronavirus cinese continua a surclassare tutte le altre notizie a livello almeno internazionale. Tra gli aggiornamenti più rilevanti di oggi vi dico quanto segue. Per quanto riguarda la situazione in Cina, i contagiati sono oltre 17.200, più del triplo della SARS, e anche i decessi sono arrivati a 361, hanno superato quelli provocati dalla SARS, in un totale di 27 paesi coinvolti. Aumentano però anche le guarigioni, che sono arrivate a 475. Poi c'è stato il rientro dalla Cina questa mattina dei 56 cittadini italiani a bordo di un aereo atterrato a Pratica di Mare. Sono stati trasferiti all'interno della cittadella militare della Cecchignola a Roma. Rimarranno in quarantena 15 giorni, ma sembra che stiano tutti bene. A Wuhan è purtroppo rimasto un ragazzo italiano di 17 anni perché al momento della partenza aveva la febbre. E poi la notizia di poco fa è che quattro regioni del nord chiedono una quarantena per gli alunni che arrivano dalla Cina, e sono Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Trento. Il presidente della provincia autonoma di Trento chiedono che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. E quindi comincio a chiedere al governatore Fedriga come mai questa iniziativa. No, ma questo è semplicemente, guardi, c'è una circolare del Ministero della Salute. Sì. Dove dà delle direttive per quanto riguarda gli studenti provenienti dalle aree affette della Cina, quindi non stiamo parlando di tutta la Cina, una circolare emanata dal Ministero, dove specifica i comportamenti da tenere, dividendoli ovviamente per i ragazzi più grandi, per i bambini, dove per i bambini dice che docenti e non docenti devono monitorare, avere maggiore attenzione anche sulla possibilità che si utilizzino giocattoli o d'altro e quindi possano ovviamente trovare condivisione con altri bambini. Noi su questo abbiamo cercato di aggiungere alla circolare del Ministero, abbiamo suggerito al Ministero di valutare anche la possibilità per i soggetti provenienti dalle aree affette dalla Cina, quindi non da tutta la Cina, ho visto un'informazione un po' stravolta, quindi una platea decisa dal Ministero stesso, ovviamente sentendo, immagino, tutte le istituzioni scientifiche molto attente a valutare caso per caso, abbiamo suggerito al Ministero di valutare anche l'ipotesi di utilizzare misure precauzionali più decise, come per esempio non far frequentare nei 14 giorni, visto che la stessa OMS dice che, seppur difficili, fortunatamente i casi di trasmissione possono venire anche tra soggetti asintomatici, quindi che non presentano sintomi di febbre o altri tipi di segnali che possono far prevedere il virus presente nel soggetto. Abbiamo detto per 14 giorni, ho detto di utilizzare questo monitoraggio, quindi la possibilità di non fargli accedere al plesso scolastico. Mi scusi Fedriga, lei ha fatto un calcolo per quanto riguarda la sua regione, il Friuli Venezia Giulia, di quanti bambini Noi ci è arrivata la circolare, ma non rientrate, perché principalmente si parlano di persone già rientrate. Ah. Circolare, perché come sapete noi abbiamo sospeso, per quanto riguarda l'Italia, i voli. È altrettanto vero che però ci sono persone che evidentemente possono far scali in altri paesi che non hanno adottato le medesime misure, quindi è chiaro che la situazione è in divenire e ad oggi certezze su questo virus assolute non esistono, i centri di ricerca stanno lavorando, però ho fatto proprio ieri una riunione anche in Friuli Venezia Giulia e devo dire c'è stata una grande collaborazione con il Ministero e continua ad esserci. La nostra è una misura propositiva che serve in due cose, ovviamente penso che in un momento di incertezze è meglio utilizzare il maggior principio di precauzione possibili, e questo, che sia ben chiaro, non è che sono cinesi o non cinesi, può essere una scolaresca, un studente che è andato a fare un corso in Cina, qualsiasi cosa, cioè, perché anche questo ho visto l'informazione distorta che purtroppo siamo abituati ad ascoltare. Chiarissimo, Fedriga. Sentiamo cosa ne pensi. Se posso soltanto aggiungere una cosa, il secondo fattore importante è che secondo me, se riusciamo a far vedere che istituzioni sono presenti, usano anche queste misure fortemente precauzionali, riusciamo anche forse ad evitare dei facili e delle volte eccessivi allarmismi nella popolazione. Quindi anche vedere che le istituzioni ci sono e utilizzano le massime precauzioni possibili serve anche da dare fiducia, dice lei. Evitare magari delle situazioni indecorose che delle volte esistono nel paese. Professor Rezza, cosa ne pensa di questa richiesta di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e la provincia autonoma di Trento? Bisogna essere molto attenti all'evolversi della situazione sia in Cina che nel resto del mondo. In Cina fino ad ora abbiamo detto che la città più affetta era Wuhan, che è una città di 11.000 abitanti, quindi è chiaro che da lì partiva anche molta gente, infatti diretta verso l'Europa e verso il resto del mondo. Adesso tutta la provincia del Hubei, quindi la provincia di Wuhan, è colpita e chiaramente ci sono dei focolai in evoluzione in altre città. È logico che noi dovremmo dare per scontato che da Wuhan, visto che c'è un cordone sanitario intorno a queste città, hanno quarantenato, i cinesi hanno quarantenato circa 50-60 milioni di abitanti, una popolazione pari a quella italiana, da queste città non dovrebbero più arrivare ormai da più di 10 giorni delle persone che non siano uscite prima, diciamo, quindi forse al di là del tempo di incubazione massima. Però quelle che arrivassero semmai da Wuhan, è chiaro che come quanto vale per gli italiani che stanno rientrando da Wuhan, varrebbe anche per loro, cioè nel senso del periodo di quarantena sicuramente. Però ripeto, da quelle zone non si dovrebbe uscire. Per quanto riguarda il resto della Cina, sicuramente la situazione va monitorizzata, perché è chiaro che i provvedimenti non possono estendersi a tutti i cinesi in Italia che sono tornati dalla Cina da qualche tempo a questa parte. Adesso abbiamo bloccato anche i voli diretti, mi riguardano soprattutto le persone che arriverebbero tramite voli indiretti in altre destinazioni. Con gli scali, come si diceva, europei, perché l'Europa non ha una posizione unita su questo. Sentiamo, professor Rezza, sentiamo anche che cosa ha una richiesta anche il sindaco Matteo Biffoni di Prato, dove sappiamo a Prato c'è una grande comunità storica cinese, no? Sindaco Biffoni, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ma noi, nel senso, abbiamo chiesto al ministro, io l'ho scritto anche una lettera sia a lui che al ministro Di Maio, in particolare un'attenzione sugli scali e sugli arrivi, perché diciamo, noi non vogliamo alimentare nessun tipo di paura, nessun tipo di situazione particolare. Nello stesso tempo diciamo, siamo preoccupati, chiediamo e attenendoci a quello che ci verrà comunicato da parte del Ministero, da parte delle autorità sanitarie, però chiediamo una certa attenzione in particolare sugli arrivi. Sentivo che anche il professore prima di me diceva un po' la stessa cosa. Quello che preoccupa è che oggettivamente c'è stato un controllo, mi sembra piuttosto stringente, nei nostri aeroporti c'è stata un'attenzione piuttosto elevata sugli arrivi in questi giorni, poi adesso c'è il blocco delle partenze, degli arrivi appunto dagli scali cinesi. Spero, mi auguro e vorrei avere garanzie che anche chi magari ha fatto scalo in altre città, non solo europee, abbia lo stesso controllo quando arriva sul nostro territorio. Questo sì, ecco, perché questo secondo me sarebbe già il primo fattore di tranquillità per tutti quanti. Poi per il resto noi ci atteniamo pedissequamente a tutto quello che ci verrà comunicato da parte del Ministero, da parte di chiunque, diciamo, delle autorità sanitarie, ci dirà di fare determinate scelte. Non spettano direttamente a noi, certo è che insomma almeno una serie di garanzie abbiamo bisogno di averle. Preside Rusconi, buonasera. Lei buonasera. Che cosa pensa, visto che voi siete coinvolti direttamente, no, nel dover gestire i flussi degli allievi nelle scuole, come vi state comportando? Ma guardi, noi come dirigenti dello Stato abbiamo l'obbligo e il dovere di rispettare le norme dello Stato, per cui se il Ministero della Salute o il Ministero dell'Istruzione non ci dicono che dobbiamo allontanare i bambini e i ragazzi cinesi, anche perché sarebbe molto difficile sapere chi il bambino o il ragazzo cinese che viene dalla Cina oppure che si trova a Roma, noi applichiamo le norme dello Stato, per cui i bambini e i ragazzi cinesi possono liberamente frequentare le scuole italiane. Fermo restando che poi la scuola italiana, per fortuna dico io, è abbastanza allenata a, diciamo così, ad affrontare queste emergenze. Basti pensare alla SARS, ma anche alla peste suina del 2009, per cui già in molte scuole del centro, proprio noi come associazione dei presidi, insieme a diversi insegnanti e presidi, avendo sentito anche il Ministero della Sanità, le ASL, stasera stavo parlando proprio con una dirigente della ASL che ha dato la sua disponibilità, da domani cominciamo a fare una serie di corsi sulla educazione sanitaria, tra l'altro estendendola anche ai genitori dei bambini e dei ragazzi, in maniera tale da cercare di fare in modo che l'allarmismo che si sta diffondendo perda un po' di efficacia. Oltretutto crediamo molto in quelle che sono le rassicurazioni che ci dà l'Istituto Superiore di Sanità: a meno che non intervengano situazioni differenti, noi appunto non possiamo bloccare l'ingresso dei bambini o dei ragazzi cinesi o non cinesi nelle scuole italiane. Governatore Fedriga ha sentito le opinioni, tra l'altro il suo collega Zaia, governatore della Regione Veneto, ha detto praticamente, insomma, così come sul caso della tubercolosi o della meningite si tengono i bambini, insomma, in una situazione di protezione, così anche per questo, per il coronavirus, vorremmo chiedere lo stesso. Però questo avviene sempre a livello statale, no? di decisioni, di protocolli a livello statale. Se non vi ascoltassero in questa vostra richiesta, che cosa intendete fare, Federica? Ma guardi, no, ma il nostro scopo non è, guardi, che sia chiaro, andare contro decisioni del Ministero nazionale. Il nostro scopo, penso, anzi un dovere delle istituzioni del territorio, segnalare e collaborare col Ministero, e per questo abbiamo voluto collaborare mandando una lettera ufficiale firmata dai quattro governatori segnalando questa possibilità che riteniamo opportuna, anche rispetto agli interventi che ho sentito anche del professore, che giustamente, e penso in modo molto scientifico, perché chi oggi ha certezze è molto lontano dalla scienza, invece le frasi dubitative del professore sono proprio al centro proprio anche della serietà della scienza, dove quando non ci sono certezze bisogna utilizzare precauzioni, e mi sembra che sono state sollecitate queste, e la nostra è semplicemente una precauzione rispetto, ribadisco, qua ho sentito dire di allontanare i bambini cinesi, nessuno può allontanare i bambini cinesi, sia ben chiaro, può essere anche un italiano, uno svedese, un polacco che è stato in una zona affetta, ricordiamolo, la circolare non parla chi viene dalla Cina to cure, ma chi proviene da una zona affetta anche nei giorni precedenti al blocco aereo, perché di questo parla la circolare. Noi quello che chiediamo è che il Ministero valuti la possibilità appunto di garantire questi 14 giorni con i dubbi che oggi tutti hanno e nessuno riesce ovviamente a dare certezza. Penso che sia utile, lo ribadisco, per le persone stesse, per anche dare tranquillità alle famiglie e alla popolazione. Professor Rezza, vuol fare una battuta di chiusura, poi do una battuta anche a Biffoni. Sì. Tutto ciò che è migliorabile può essere migliorato, deve essere migliorato. È chiaro, quando c'è una situazione in evoluzione, di giorno in giorno si rivalutano tante cose. Quindi anche un provvedimento che oggi ci sembra essere abbastanza rassicurante può però essere rafforzato qualora la situazione epidemiologica cambiasse o ci fossero nuove evidenze. Quindi, proprio perché, come dice lei, di giorno in giorno bisogna legalmente bisogna cercare di affinare i mezzi che abbiamo, perché abbiamo fatto bene come Italia a essere un passino avanti rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda le misure di controllo. Certamente dobbiamo continuare su questo. Chiaro. C'è Martino che dice: ahimè, non c'è limite al peggio, ma siamo l'unico paese in Europa a dedicare tutta questa attenzione mediatica e spazio sui giornali a questo argomento, seppure di rilevanza mondiale. No, non mi risulta, Martino, mi pare che anche gli altri paesi, Francia, Germania, insomma, ne parlino parecchio. Andrea da Udine dice: perché non parliamo di quanti muoiono invece per una semplice influenza? Dice che allora cosa facciamo? Chiudiamo in quarantena intere classi o posti di lavoro? Però, come diceva il professor Rezza, bisogna monitorare di giorno in giorno e vedere, a seconda di come può evolversi la situazione, naturalmente affinare, dice, le armi per prevenirla. Biffoni, sindaco di Prato, per chiudere, com'è l'atmosfera nella sua città, diciamo, questa grande comunità cinese? Ho sentito che qualcuno si autoimpone anche una quarantena. nella sua città. Sì, diciamo, voci che girano, si narrano anche di queste scelte da parte di alcuni cittadini rientrati negli scorsi giorni. Ora, questo mi interessa poco. Io devo dire, la mia città, forse perché è un po' più abituata, ha reagito per ora, almeno per adesso, con una sostanziale preoccupazione, ma senza eccessi, nel senso che anche gli episodi che sono stati narrati all'inizio della trasmissione, qualcosa è successo, ma insomma niente di esagerato, considerando appunto la consistenza anche della comunità cinese in questa città, e devo dire anche la reazione è stata di richiesta di informazioni da parte delle persone. Io ho ricevuto ovviamente i social del sindaco e la mail del sindaco, sono un termometro assolutamente efficace, hanno scritto un numero non esagerato, devo dire la verità, rispetto a quello che poteva essere, e molti, diciamo, in maniera assolutamente composta, nel senso che ci chiedono di sapere come stanno le cose, cosa sta succedendo, se ci sono precauzioni da adottare, che sono poi quelle che noi ovviamente chiediamo costantemente alle autorità della ASL, alla Regione Toscana e più di tutte al Ministero, nel senso, mi è sembrata per ora una reazione piuttosto composta, devo dire. Però c'è preoccupazione, non si può negare che sia tutto a posto, beh allora facciamo finta di nulla, anzi il sindaco per primo e ovviamente tutto il resto della popolazione, se qualche pensiero in testa ce l'ha, senza paura, ma c'è. Chiaro. Rusconi, proprio per chiudere, in una battuta cosa direbbe, cosa consiglierebbe ai genitori che dovessero essere in ansia in generale, proprio sintetico? Ma è una battuta di seguire le norme sanitarie che ci sono state proposte dal Ministero della Salute, però organizzativamente vorrei sapere io come si possa fare a sapere se un bambino cinese o anche un bambino italiano e così via sia stato o meno in Cina. Cosa facciamo fare? Una dichiarazione giurata? Non capisco come si potrebbero, diciamo così, allontanare quelli che sono stati, quegli studenti italiani o cinesi che siano stati nelle zone, diciamo, infette, non potendolo sapere. Cosa chiediamo? Ripeto, una dichiarazione giurata, mi sembra che organizzativamente sarebbe abbastanza sarebbe complicato. Dice, va bene, comunque norma. Tanti spunti stasera per migliorare man mano la situazione e la sicurezza dei cittadini. Grazie allora al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, grazie al Professor Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, Matteo Bifoni, Sindaco di Prato, e Mario Rusconi, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio. Grazie a tutti, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, ritorno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, fate attenzione perché è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano che vi accompagna tutte le sere da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per darvi un ragguaglio generale ma anche scrupoloso delle cose più importanti che sono successe in Italia e all'estero, e poi argomenti affrontati insieme agli ospiti per chiarirli. Abbiamo parlato ampiamente del tema del coronavirus con ben 4 ospiti, con vari spunti che sono venuti fuori, governatori di 4 regioni della Lega che chiedono di mettere in quarantena anche i bambini che tornano dalle cittadine cinesi che sono state colpite particolarmente dal coronavirus, e poi avete sentito anche l'opinione del presidente, del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, il sindaco di Prato con la vasta comunità cinese e il preside Rusconi. Adesso invece passiamo alla politica italica. Abbiamo chiesto al presidente Conte a questo punto di produrre una sintesi, che io credo che sia giusto, anche perché gli italiani ci guardano e noi vogliamo un governo che produca fatti, e credo che invece le continue polemiche creano solo danni e rafforzano le destre. Tutti vogliamo un governo che produca fatti. Cara Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani, ciao cara Betta. Buonasera radioascoltatori. Allora, per quanto riguarda la politica italiana, Betta, l'attenzione è puntata in particolare sul governo incagliato sul tema della prescrizione di cui abbiamo parlato varie volte. Insomma, qui sembra che non si vada avanti perché non si allenta infatti la tensione, no, tra le varie forze della maggioranza, in particolare tra le due maggiori, PD e Movimento 5 Stelle, ma anche con Italia Viva di Renzi, con il segretario del PD Zingaretti che, come abbiamo sentito, cerca una soluzione, si auspica che Conte possa trovare una mediazione, e avverte il Movimento 5 Stelle, dice: se non si trovasse andremo avanti con la nostra legge. E poi Matteo Renzi resta fermo sulle sue posizioni, avvisa il ministro Bonafede, dice: se vuole forzare sappia che almeno il Senato non ha i numeri, trovi una mediazione. Vogliamo sentire un passaggio di Renzi che dice: non sono queste minacce a Bonafede. Voi avete detto che io minaccio il governo. No, ho soltanto messo in guardia il ministro Bonafede dal fatto che sulla prescrizione lui non soltanto ha contro tutti gli avvocati d'Italia, non soltanto ha contro la stragrande maggioranza dei magistrati, non soltanto ha contro la stragrande maggioranza dei commentatori, ma non ha i numeri in Parlamento. Allora io l'unica cosa che dico è: occhio, perché se continui a andare a tutto fuoco, si dice a Firenze, senza renderti conto che c'è una curva, il problema è che poi vai a sbattere contro il muro. Allora sentiamo adesso Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle come risponde. Ricordo che la riforma della prescrizione è già legge e nel programma di governo non è prevista alcuna revisione, semmai si parla di riforma del processo penale per abbattere i tempi dei processi. Il ministro Bonafede ha sempre dimostrato la massima apertura al dialogo, ma i toni usati nelle ultime 24 ore sono inaccettabili. Quindi dove si va a parare, cara Betta Fiorito? Allora, diciamo una cosa, l'apertura dell'anno giudiziario ha dato un chiaro indirizzo. Con l'abolizione, lo stop alla prescrizione, ci sarebbe la paralisi totale dei processi. Cioè levando la scadenza, la data di scadenza a un processo, dice, insomma, si andrebbe avanti all'infinito? Sì, cioè ci sono stati gli stessi magistrati che sono andati contro il ministro della giustizia. Ora noi siamo in uno stato ancora oggi con la separazione dei poteri e quindi questo allarme dei magistrati verso lo stop alla prescrizione va preso in considerazione. Ora poi che tutto questo venga usato da Italia Viva come un monito contro il governo, come a dire: se noi votiamo contro voi non avete i numeri in Senato, uguale il governo cade, questo va anche detto. Allora, ci sono varie istanze. C'è un'istanza della magistratura che ha detto questo stop è negativo, quindi stiamo parlando non degli avvocati ma dei magistrati. Quindi c'è una situazione di impasse e c'è questo nodo presentato da questo lodo presentato da Italia Viva, che è quello di dire rimandiamo. Cioè, poi alla fine è questo. Dall'altra parte c'è cioè rimandiamo in attesa di riformare il processo penale in modo già da accorciare in qualche modo i processi. Diciamo così, sì, la controparte sarebbe la ragionevole durata dei processi. In uno Stato in cui c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè il magistrato comunque deve a prescindere, deve intraprendere un'azione penale, qualora ci sia un'avvisaglia di un reato, molto difficile. La situazione è un impasse ed è molto molto spinosa la questione. Non so se il lodo Conte, quello che praticamente prevede lo stop alla prescrizione solo quando c'è una condanna in primo grado ma non quando c'è l'assoluzione, possa essere poi uno stop costituzionale, Perché fa distinzione tra chi è condannato e chi invece è assolto, dice, nel percorso del processo. Sì. Pronto Betta? Che è successo? Caduta Betta. Un tema così pesante, boom, è andata giù. Va bene, vediamo di riuscire a riprenderla. Vogliamo mandare intanto la viabilità mentre Betta si riprende? A tra poco. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo in collegamento con la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Betta, per chiudere, voglio capire quando è che va in prescrizione il tema della prescrizione, cioè quanti giorni hanno per decidere che fare sulla prescrizione? Allora, dicono ci sono 3 giorni per mediare con Renzi. In realtà a metà febbraio c'è questa tegola del progetto di legge a firma di Costa, un deputato di Forza Italia, che prevede il no e quindi l'abolizione allo stop alla prescrizione, quindi al giudizio di buona fede. Quindi quando arriverà questa proposta di legge a Montecitorio e se mai ci fosse un voto segreto, allora lì saranno un po' problemi. Bene, direi che a questo punto possiamo lasciarci in attesa di capire se questa sintesi, questa mediazione che auspica il segretario del PD Zingaretti, Conte, sia in grado di trovarla e poi tutte le parti del governo possano essere ricomposte. Grazie alla nostra Betta Fiorito. Grazie a voi. Ciao cara Betta. Oh, dice questo ascoltatore, la prescrizione poteva rimanere com'è, però potendo riaprire il caso se ci fossero elementi nuovi schiaccianti. Sì, lo so, ci sono vari distinguo, varie possibilità, diventa tutto molto complesso, vediamo se la politica riesce ad arrivare a un punto. Intanto c'è il nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sulla partita Sampdoria-Napoli. Roberta. Ciao Giovanni. Sì, siamo appena iniziato il secondo tempo, siamo nel secondo minuto della ripresa. Il parziale vede il Napoli in vantaggio per 2-1, così come ci eravamo lasciati. Abbiamo raccontato il vantaggio di Milik al terzo, il raddoppio di Elmas per i partenopei al sedicesimo, poi al ventiseiesimo il gol molto bello di Quagliarella che ha riaperto l'incontro. Nel finale la Sampdoria ha avuto un'occasione colossale per pareggiare al quarantesimo. Ramirez, dopo una mischia furibonda nei pressi della linea di porta del Napoli, ha colpito praticamente a porta vuota, però ha colpito il palo e dunque si è andati sul riposo sul 2-1 per il Napoli, risultato che è tuttora quello di Marassi quando è appena terminato il secondo minuto della ripresa. Questo per quanto riguarda Sampdoria-Napoli. Sì, invece Giovanni, per quanto riguarda la panchina d'oro 2019, panchina d'oro 2018-2019, è andata a Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Per quanto riguarda il calcio maschile, Gasperini che ha raccolto 22 voti su 49. Ricordiamo che a votare sono i tecnici italiani, i tecnici di Serie A e di Serie B, quindi questo è un premio particolarmente ambito dagli allenatori. Gasperini ha vinto davanti a Mihajlovic, che poi ha avuto in realtà un premio speciale del settore tecnico della Federcalcio. Mihajlovic è stato premiato per la battaglia che sta portando avanti contro la leucemia. Terzo è arrivato Massimiliano Allegri, che l'anno scorso con la Juventus ha vinto il quinto scudetto di fila. Il successo di Gasperini è particolarmente significativo perché dal 2011 a oggi solo un'altra volta, nel 2016 con Maurizio Sarri, la panchina d'oro è andata a un tecnico non campione d'Italia in quella stagione, mentre altrimenti hanno sempre vinto allenatori che hanno al termine della stagione vinto lo scudetto. E dunque Giampiero Gasperini, che l'anno scorso ha portato l'Atalanta a una storica qualificazione alla Champions League, è stato premiato dai colleghi pur non avendo indossato il tricolore alla fine di maggio. Giovanni, invece per quanto riguarda il calcio femminile, qualche premio? Qualche riconoscimento? Sì, ci sono stati premi anche per il calcio femminile, che ormai soprattutto a livello federale fa assolutamente parte di tutto il movimento del calcio italiano. Anche il calcio femminile ha espresso la sua panchina d'oro, dunque la migliore allenatrice della passata stagione della Serie A. Anche in questo caso ha vinto un'allenatrice che non ha vinto il campionato a fine anno. L'anno scorso il campionato l'ha vinto la Juventus. La panchina d'oro invece è andata a Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma. E la panchina d'argento, che così come per i maschi anche per le femmine premia il miglior allenatore o la migliore allenatrice della Serie B, in questo caso femminile, è andato a un tecnico uomo, Alessandro Pistolesi, allenatore dell'Empoli, che l'anno scorso ha fatto una grande stagione in Serie B e dunque anche il calcio femminile è entrato a far parte di questo importante riconoscimento. Giustamente, grazie Giovanni Capuano. Ciao caro Giovanni. Grazie a te. Ciao. Siamo anche alla vigilia della 70ª edizione del Festival di Sanremo, che domani prende il via con tutto il polverone di polemiche che ci sono state nelle scorse settimane, no? Istantisti, stereotipi sulle donne da parte di Amadeus, anche se poi si è scusato, ma insomma è meglio che sia un po' più presente a se stesso quando dice certe cose. Poi la presenza di un concorrente che 2 anni fa ha scritto una canzone in cui parlava di aver violentato e ammazzato una donna. E, clima della vigilia, cara Marta Cagnola, nostra inviata a Sanremo, qual è? Ciao Marta. Ci siamo. Allora, il clima in realtà è molto più sereno perché oggi c'è stata una conferenza stampa in cui dopo tante polemiche, insomma, si è cercato un po' di inquadrare la situazione. Complice uno show di Fiorello. Cosa è successo? Che dopo i saluti di rito, il benvenuto del sindaco, queste cose che succedono sempre al primo momento di arrivo a Sanremo, è arrivata la domanda della prima cronista che si è prenotata, che chiedeva appunto ad Amadeus come avesse vissuto le polemiche. Ancora prima di rispondere, difficile non pensare che fosse insomma, magari un po' preparata, però è venuto bene, Fiorello. È entrato Fiorello. Allora lo sentiamo, Marta. Sentiamo direttamente. Dilla la verità, che intanto la prima cosa che tu hai pensato per quando mi ha proposto questo festival, sì, così, mi ha scelto proprio per l'aspetto fisico, perché, perché è vero, lui mi ha detto ti voglio al mio fianco, né avanti e né indietro. Fiorello gli ha lanciato un'ancora, diciamo, di salvezza via su questa cosa per smussare le polemiche, no Marta? Sì, in realtà appunto Amadeus è davvero amico di Fiorello da tantissimi anni, e Fiorello che ha fatto questo show di 17, ha parlato per 17 minuti, ha fatto ridere tutti tantissimo, ha raccontato un po' qual è il carattere di Amadeus, e dice che Amadeus è uno che spessissimo fa delle gaffe, non si rende conto di quello che dice, e quindi lui ha detto io sono qua, a un certo punto in questi giorni aveva addirittura detto io starò con un bastone dietro la schiena e ogni volta che dice una scemenza bella botta e via. Sì, meno male. Marta, perché senti, dice che lui è così come carattere. Senti, invece canzoni e ospiti della prima sera, ci vuoi rivelare giusto qualcosa? Allora, intanto Junior Kelly lo sentiremo già domani sera, quindi potremo già giudicare il brano di questo Sanremo, che è un brano molto forte e molto intenso, lo sentirete. Ci saranno 12 big e 4 giovani che faranno una sorta di semifinale, poi appunto ne passeranno il turno in due, invece non ci sono eliminatorie tra i big. Ci sarà reunion di Albano e Romina, e direte ma sì, hanno già fatto la reunion, hanno già cantato insieme, ma erano 25 anni che non incidevano un disco insieme, e adesso c'è un nuovo brano dopo 25 anni inciso insieme da Albano e Romina, quindi una cosa nuova che portano nuova. E pare che Romina faccia anche una sorta di, cioè il ballo del quacquà in versione reggaeton, non so se sentivamo il bisogno, ma di fatto ma forse lei sì, anche questo. Sì, poi ci sarà Rula Gebreal con il suo monologo annunciato sulla violenza sulle donne, certo. E poi ci sarà Jessica Notaro, in molti la ricordano. Sì, è stata spregiata dall'ex fidanzato, una ragazza di estremo coraggio, una ragazza di grandissima personalità che si è sfidato se stessa mostrandosi anche abballando con le stelle. E domani sera succederà qualcosa di particolare. Non voglio svelarlo per non rovinare la sorpresa. Non più di qua. Così, è già abbastanza quello che ci ha detto Marta Cagnola. Il resto verrà nelle prossime serate. Buon divertimento a te, intanto a Sanremo. Ciao Marta. Prestissimo. Prossimi collegamenti. Ora invece ci dobbiamo lasciare. Vi aggiorno brevemente alle 22.